Questa distinzione tra false autorità e vere autorità è decisiva. Nella vulgata psicologica normale si parla di conflitto con l'autorità. Ma io perché non devo avere un conflitto con un padre opprimente, con una madre assente, con un fratello prepotente, con un datore di lavoro disonesto? Ma perché non dovrei avercelo? Naturalmente, posso superarlo, questo sì, posso superarlo. Ma non è che queste persone sono autorità, non posso chiamarlo conflitto con autorità, c'ho un conflitto con chi vuole esercitare su di me un potere e dominio. Non voglio subire violenza. Una donna prevaricata, violentata da un uomo, è un conflitto con l'autorità, se no. Lui vuole imporgli una cosa, lei non la vuole. Conflitto con l'autorità? No. Ecco, il conflitto con un capo ufficio prepotente non è un conflitto con l'autorità. È un conflitto con una persona perversa. Il che non significa che allora dobbiamo metterci a lottare, nei soliti modi, reattivi. Rispondere vuol dire, tu sei prepotente? Lo vedo, lo riconosco. Bene, poi faccio il poeta, prima il direttore d'orchestra. Vado alla mia orchestra e dite, sentite un attimo, c'è un po' di casino qua, eh? Vedo che siete andati fuori tempo. Ok, il fatto che ci sia lui, lei, quello che è, non significa che noi dobbiamo suonare male, eh? Ok, riprendiamo a suonare come si deve. Ok, bene, perfetto. Bene, ora siamo di nuovo insieme, lo guardiamo, poi dobbiamo fare anche i poeti. Vista questa condizione, in cui io sono di nuovo padrone dell'orchestra, siamo il direttore e l'orchestra, sono insieme, vista questa condizione, che possibilità reali ci sono per uscire da questa situazione? A volte non ci sono possibilità reali individuali. Per esempio, all'epoca, ma anche adesso, voglio dire, di fronte a un capitalismo sfrenato, chi non ha lavoro, chi non ha soldi da parte, chi non ha famiglia ricca, deve prendere quello che c'è e quindi deve subire il carattere, a volte perverso, no? Di chi guida l'impresa, di chi è il capo ufficio, quello che è. Allora, io sopporto un capo ufficio, perché l'alternativa qual è? Che non ho da mangiare. Bene, ma questo corrisponde a essere in prigione, cioè non posso fare, come posso esprimermi? Posso esprimermi liberamente, cosa farei se potessi esprimermi liberamente? Ciao, sai cosa ti dico? Io non vengo più da te, non ci vediamo più, sei fatto così, per me puoi fare quel che vuoi, prendo e me ne vado. La domanda è dove vado oggi? C'è tutta la terra, vado in un posto, mi metto a coltivare un po' un campo e vivo così. Ah sì? E dove lo trovi? A 10.000 euro al metro quadro? Ce l'hai i soldi? No. E allora torni da lui e ti sottometti. Però i capitalisti non sono scemi. Hanno creato questa economia di oggi creando le condizioni per cui non si potesse più lavorare in modo indipendente. Hanno chiuso le terre comuni, hanno fatto tutto quello che era necessario per avere dei disoccupati, un esercito industriale di riserva di disoccupati, pronti a sottomettersi. Quel problema non lo risolvi individualmente, capisci? Quel problema lo risolvi facendo cosa? Andando da altri tuoi conoscenti e dici, ma anche a te ti succede questo? Sì, sì, sì, anche a te, anche a te, anche a te, anche a te, accidenti, porca miseria, ma allora non ce l'ho solo io. Vediamo un po' di unirci e vediamo cosa possiamo fare. E cosa è stato fatto nella storia? Un giorno ci siamo presentati da lui tutti insieme e abbiamo detto, senti, da te non ci veniamo più, o fai così o ce ne andiamo. E lui dice, e che me ne frega? Tanto ne trovo degli altri. Ha capito. Bene, torniamo, non siamo abbastanza. Cresciamo di numero, cresciamo di numero, cresciamo di numero. Un giorno siamo così tanti che lui per forza deve trattare con noi. Questa è la storia, è semplice. Quindi la storia è fatta di una lotta tra prepotenza e debolezza, tra queste due forze qui, e continuamente queste forze hanno sempre fatto questo lavoro. Allora chi è debole in posizione di debolezza ha lottato per acquisire dei diritti, e coloro che hanno il potere cosa hanno lottato? Hanno lottato per riconquistare le posizioni di potere. È un continuo movimento così. Quindi alcune volte la risposta è, bene, La mia orchestra funziona bene? Sì. Mi unisco ad altri, generiamo un'orchestra collettiva che funziona bene e dopo facciamo un'azione per risolvere quel problema lì. Quindi è un'azione politica. Se no non se ne esce.